faccio avete provato in due sempre tutta la serie così. Aspetta, stiamo parlando, ho detto il frigo, ho il frigerino personale in camera, lo devo pulire che lo sto inaugurando per la stagione dei gelati. Io ce l'ho già i gelati. Ma io me li nascondo in camera, capite? Così li mangio solo io. Mangiate i gelati che vi fanno bene. Franco, pure che si sta facendo? Tranne Tonino che non le può mangiare. Non le mangio io. Con Lucci. I gelati d'estate c'è, si sente che ci vogliono. Io ho già mangiato una di quelle da mezzo chilo, una vaschetta, due di pinguini e due di coso, sto confessando, e due di cornetti. E quanto male sei da Bumagli? Cremino, cornetti, magno, però oggi mi ha congelato perché sono rientrato poco fa, ero da mio figlio a posata, perché mi ha fatto un regalo e sono andato a prenderlo. Sei coccoma, ne sei già, tu mangi un po' di gelato, sei coccoma, e poi c'è un altarino, sei. Ciao Luca. Oh. Luca, ma stamattina è tipo 10 tacca. Già, allora perdonami, allora non è che butti la città. Il problema è che stavo aspettando la chiamata. Stavo aspettando per andare a pulire questo coso. Sicuramente andrò domani mattina. Se domani mattina non si fa sentire, ci crediamo, ok? Vabbè dai, non c'è problema. Ma devi fare un colpo di telefono, io non sono uscito aspettando. Vabbè dai, non c'è problema. Perché non mi hai chiamato già? Non mica ti ho detto il telefono, ti ho detto il telefono già. Io sto aspettando questo qua, devo pulire questo coso. Questo... c'è un... come si chiama? Un bonsai lì in piazza di fronte alla Grattacielo, dai. C'è questo bonsai da pulire. E va nell'ermaccia da mezzo alla pianta. E poi rimette la recinzione in piedi. E niente, questa mattina sono andato a vederlo per il tavolo di passaggio. Verso le... che era mezzogiorno, lui c'è mezza così. E se domani mattina lui c'è dopo, se non si fa sentire più giù paletto. E non so quella comunità di nessuno. Infatti. Vabbè, non c'è problema, sentiamo domani. Avanti Torino. Carpa, io mi devo girare la pasta e fagioli, ti rientro subito. Io voglio che si ceci, no, e non mi sono ancora deciso a farli, va a finire che li pianto. Mi fai la piantagione di ceci, così puoi andare a caccia. No, mi piacciono quelli freschi, quelli che scoppiano. Ma li fai scoppiare tu quelli lì, così vai a caccia con i pallettoni. Mi è arrivato un messaggio, devo andare a ritirare un pacco alla Amazon Hub. Ma ordinato te l'hai? No, è un'altra cosa questa è un'altra cosa. No, quello arriva domani. Ma l'hai ordinato? Sì, ah! Non ce l'ho fatta resistere. Cosa si è ordinato già? Il maracchino, quello, il nuovo, come si chiama? Il nuovo 3009. Oh Gianni, hai visto il su Facebook, l'ho messo col drone, carino, 69 euro costa, pagamento la consegna, ed è super potente, ma se non lo compro, la dici, ti piace il drone? Oh, io ho visto una volta, ero col cane nella strada nuova che porta su al monte, ero da casa, e c'era questo signore che aveva questo drone, stava facendo volare, e praticamente lo faceva volare lontano dalle case, poi praticamente lui era vicino alle case, quando atterrava vicino, si è affacciato uno, l'ha preso a parolacce, gli ha detto di andarsene via con quel drone, se lo chiama per carabinieri, penso di qua, e lui gli ha detto, ascolta, fa una cosa, perché non vieni qua a dirmi queste cose, però non sei scido, ho detto vieni qua a dirmi le cose, io problemi non ne ho, non devo stare a voci, io sto facendo volare il drone lontano, lo sto facendo solo atterrare qua, che cavolo vuoi? Mia, adesso per il drone ci vuole l'assicurazione, ce ne vuole poco di permessi e di malassurdi, se no te lo sequestrano e ti fanno nuovo. Non è così col drone adesso, quelli grandi, quelli no, quelli certo giocattolo, dai. Per tutti. Luca, siccome non ho prenderti l'elicottero, ricordo quando siamo andati a farli volare lì a cosa, a Monserrato. erano altri tempi e potevi fare più cose, adesso è tutto vietato, ci vuole il brevetto di volo, l'assicurazione, poi adesso c'è questo bollino, è una mezza revisione che fanno che ogni 2 anni va rinnovata. Stanno distruggendo un hobby, perché alla fine, anche se tu vuoi essere ligio al dovere, ti fanno passare la voglia, senza contare che a uno che era tutto in regola, l'ho letto su internet, era tutto in regola, sono arrivati i carabinieri, siccome non conoscevano le leggi, ha detto per noi è in difetto e glielo sequestriamo. Cioè, anche se sei in regola te lo sequestrano perché trovi l'appuntato Cacacci, che non ne sa. Io non ero avvocato. No, e cosa fai? Glielo strappi dalle mani del pubblico ufficiale, delicato lì. Sì, ma lì è abuso di potere, se non conoscono le leggi, scusa, devono andare a raccogliere un libro, non a fare i carabinieri. Vabbè, ma tu sei prepotente già, adesso ti prendono la manganellata e ti mettono le manette e poi ti tolgono i pantaloni e ti fanno il lavoretto, io non so come fanno adesso. Non è così, io ne ho visto su internet che i carabinieri hanno presentato le leggi, questo qui cazzo ne sapeva un me, conosceva le leggi con tutti i numeri e tutto quanto, articolo di legge, numero, non la conosce questa legge, allora guarda se la studi, e allora chi gli ha detto che non la conosco, e lo sta dimostrando, gli ha detto. Masco, io ho trovato gente che adesso è una... vado. Ehi. Allora, si parlava di un certo articolo e di una certa modalità, trasporto e basta. Questo X in divisa mi ha detto no, non si può trasportare, no, se lo troviamo denunciamo. Beh, gli ho sbattuto a faccia la legge, era una discussione tra di noi, gli ho sbattuto a faccia la legge, dice non è così, dice, io se trovo uno che lo trasporta lo denuncio. E di cosa vuoi parlare? Chi è sordo, che chi non vuol capire non capisce. La carabina ce l'ho trovata. Non era né un controllo, stiamo parlando con un collega di del figlio di Veratre, un collega suo, questo collega di quelli testari dice no, io se trovo denuncio non è così, cioè tu gli porti la legge stampata, gliela sbatti a fascia e lui ti dice non è così. E ti sequestra tutto, perché sono dei pastorazzi, non capiscono un cavolo, però hanno il coltello dalla parte del manico, capito? È come che facessi un falso in atto pubblico o qualcosa del genere, c'era comunque un reato simile. Cioè non bisogna rompere le palle più di tanto. Tu dici, pur sapendo, gli ho portato, gli ho fatto vedere la legge vigente, ha denunciato lo stesso, pur sapendo che era in difetto lui, e lì allora è che sai cos'è, non sono responsabili loro personalmente, capito? Loro si fanno presto a denunciare per cose, reati inesistenti o illeciti, o quello che è. E tanto a loro non gli toccano i portafogli, capito? Invece, siccome sono professionisti, come tutti i professionisti dovrebbero pagare di tasca i propri errori, cosa che non succede. Se capì? Io stavo parlando con la 50, non ho seguito un tubo, mi dovete scusare. Sì, io ho detto che i professionisti, anche loro in quanto tale, dovrebbero pagare i propri errori di tasca, cosa che non succede. Cioè a me, perché a me lo potevano sequestrare il baracchino che era omologato, e me l'hanno sequestrato, mi hanno multato, mi hanno levato poco di cosa stai lì, non capisco un cacchio. Io cosa ne sapevo che era appena uscita la legge che voleva marcato CE? Era una scatola di fiammiferi dell'Inter con targhetta di omologazione e tutto, e mi l'hanno sequestrato perché non lo potevo più tenere. Ma lì è un po' diverso, Natali, perché anche questo requisito CE non è una cosa da pochi mesi, è da anni che c'è. Se no non c'è motivo che su tutti i baracchini nuovi c'era la... anche sul libretto, oppure se vuoi scaricare, c'è sempre questo certificato che a norma sia, già hai capito, dai Natali. Oh signore, io vi devo lasciare, devo fare questa commissione, ok? Ci sentiamo dopo se riesco a rientrare. Sì, ciao. Buona commissione. commissione. Questa cosa è arrivata, la slitta da Dovetail 11 mm a Weaver 21 mm. Ho capito. Comunque Natali, forse ho capito il problema, dico la storia, no? Se va a parabola, io essendo troppo vicino già tirava alto, però allontanandosi la parabola era ancora a salire, ecco perché scavalcava il bersaglio, che andavano oltre, li trovavo nel muletto in fondo a decine di metri di distanza. Quella è stata un'imprudenza mia, perché dicevo, beh, se tiri più lontano andrà più in basso, e no, la parabola era molto ascendente a salire e quindi scavalcava il bersaglio e io non vedevo però dove cacchio andava. Perché era lontano. Ma è allucinante, allucinante, cioè quella roba tira non so quante centinaia di metri faccia, anche se regoli l'alzo, se gli metti l'alzo al massimo non so quante centinaia di metri faccia, è pure pericoloso. E più in basso devi sparare molto, non ho fatto proprio molto, ma molto più in basso, però questa volta non mi frega, questa volta metto il proietto tutti uguali, non uno di un tipo, uno dell'altro. E infatti anche quello come, e così ti pari la situazione. E che l'altra sera ho buttato la serata, cioè non ho concluso niente, non solo, ma ho spaccato tutto. Oh yeah. No, perché lì dietro c'è il muro in cemento, un muro alto più di 1,80 m, sarà 2 metri, e lì disintegrava tutto. Va bene, ok, chiudo. Gianni, riprendi, ciao, curati. Ciao Marco, ciao. Ma dove ti arriva il pacco? Il pacco domani, ho detto. Ah, ho capito. Va bene, avanti tu, così lo sentiamo almeno. Martellino lo si sente, sta girando il minestrone. Minestra, fagioli e patate, che dice che gli fa il sugo più denso, capito? Si è aggiunto delle patate alla minestra e fagioli. Capisco, io già l'ho rivolto, non le mangio di quelle cose, prima non le sto mangiando io. Ho fatto bene la pasta al forno domenica e poi non ne ho più fatto più. Io non ne ho mai fatto di pasta al forno perché non ci ho mai provato, diciamo così, mi piace. È una cazzata Natalia a farla, bisogna fare solo un buon ragù e poi si appuzza. Quando fai il ragù buono ti compri la besciamella, se non la vuoi fare più se la devi fare col burro eccetera, e la fai tu, se no la vedono già pronta. Ci metti la besciamella, io prosciutto non ne metto, la faccio normale, la faccio proprio la base, ed è molto buona senza mettere il prosciutto. Poi chi lo vuole mettere può mettere le fettine del prosciutto tra un strato e l'altro, una passata in besciamella, una passata di ragù, e cominci da sotto per non farlo attaccare, rimetti il sugo eccetera eccetera, e poi rimetti le prime, cosa ci vuole. E io non ci ho mai provato a farla, la verità, capito? Poi se faccio tutto io, la besciamella me la voglio fare io. Cosa ti volevo dire? Non ci ho mai provato a farla, la verità. Ma qualche giorno già la faccio, che mi decido a farla, la faccio. Non è difficile, dai. Magari la prima volta non ti scira bene, poi l'interessante è che non la fai asciutta, ci devi mettere molto sugo e la besciamella un po' abbondante, di modo che rimanga impregnata bene, perché se è asciutta poi è cattiva. Devi fare la crosticina sopra e sotto lo si deve bruciare. E basta che la lasci un quarto d'ora, al massimo 20 minuti in forno e cucina. Lo so. Il ragù lo faccio benissimo, proprio alla bolognese lo faccio. Faccio proprio un bel ragù io. Qualche giorno mi decido e la faccio, che mi piace la macchina a me abbassa al forno, compreso. Solo che non mi sono mai deciso a farne, non ne ho mai fatto mi fatta al forno. L'ho mangiata sempre fatta da altri. Anche il soffritto, se tu lo vuoi comprare già pronto, già tagliato e tutto, lo compri sul gelato, lo vendono anche da ditta, non a Isa, lo vendono, carote, sedano, cipolla, tutto quanto già trizzato, rumore e via, senza stare a fare fatica. No, già me lo faccio io, no, non è meglio robare. Vieni, scrivi. Cosa vuoi? È scomparso il numero di Gaia. Scusa un attimo, già, che mi sta rompendo le balle qualcuno. Scrivi. Lo sé. Già, mi devo spostare in cucina io, al limite se ci siete vi prendo più tardi. Ci sentiamo più tardi, dai. Vabbè, ciao Natale, ci sentiamo. Torino, ci sei? Già. E allora? Non ascolti con questa radio? No, non mi piace molto, rocca. Sto usando quell'apparato là, capito? Tanto per farlo muovere un pochettino, se mi fermo spento. Spostatelo dalla bocca al microfono. No, così va bene. Così sì che va bene, se tu l'attacchi troppo è satura, vedi la radio, se tu l'attacchi troppo diventa satura, la rocca mi diventa. Però con questo colore esterno ti c'è un cupo, non mi piace. Devi abituarti. Non è come gli altri, dai. Andò bene, Bemeda. Andò bene. Solo molto più chiaro i baracchini, secondo me. Che cosa già? Che i baracchini non devi stare a regolarli, a farli, invece tu lì devi stare sempre regolando. Vabbè, lo so. Vediamo. Dici che sta con l'altro, non mi piace più il carità. Adesso al massimo sei col Mikey. No? Poi va a vedere come esce. Adesso è tutto normale questo qua, 1, 2, 3, no. A regolare è un casino, non lo conosco bene. Perché è difficile da impostare. Se vedo con i casini tassi e tassini è un casino, Devo conoscerlo, capito? Piano piano, non c'è neanche il libretto, non c'è nulla che. Presentati. Piacere Cavatappi, ma c'è che cambia l'altro baracchino che è un po' così qua. Che l'hai conosciuto adesso, va? Opla la! Che la la! Mi rovi! Davvero, Albertone. E allora? Buono! Pasta e fagioli, Ave Maria, no, rigato, quelli sono nitalini, ragazzi. E una patata bella se sciolta, che è buona, mamma mia, fra poco spengo il gas, metto il tappo e all'ultimo termizio, magnifico. Cosa hai fatto? Pasta e ceci, pasta e fagioli. Pasta e fagioli, così, se sentite tuonare, non è il tempo brutto nel mio questione. Di questo tempo non se ne capisce più niente, è un vento allucinante, invece è maestrale questo. No, poi c'è vento, poi c'è caldo, poi c'è freddo, non scoprende nulla. Avanti già. Ehi, aspetta che sono le trattative di una cosa. E per quello la gente si ammala, Tony, capito? Perché cominci dal caldo al freddo, è un casino. E non si capisce più nulla, guarda. Io ho fatto guidare, a mia figlia ho fatto guidare. E infatti ci sono sempre alzando il vetro, abbassando il vetro, tornando dalla posata. Questo tempo non si capisce più niente, poi c'è caldo, poi c'è freddo, un casino. A me ne dì, non sai più come vestirti. Ma dove la posata oggi? Ah, stamattina, sono partito verso le 10, alle 11 e mezza ero già là. Cazzagappa. Poi sono partito là alle 3 e mezza pomeriggio e alle 5 ero qua. Niente, cosa volevo dirti? Ho mangiato lì e mio figlio mi ha fatto un regalo. Mi ha regalato quelle casse che si illuminano le lampadine e tutto un casino, che è bello per là. Hai visto, andava dai. Sempre casino c'è su quella strada lì di Urbia. Sempre. A parte quello anche la Urbia Nuoro, per carità, quella che prendo io per la posata. Quella ogni tanto fai unica corsia, un casino anche là. Poi con la galleria, cazzo, già non c'è illuminazione, massa a massa non si vede nulla, la più lunga che c'è l'ultima, che poi arriva a posarla. Ma carità, è tutto buio, sempre una galleria unica andata e torno. E devi stare attento, Ghibi. Ma quella porta anche a Dorgali, no? Scappa, dopo Dorgali c'è posata, infatti. La faccio buio con la galleria lì. È doppia corsia. Sì, ma sta funzionando una corsia soltanto. doppio senso di marcia, una corsia e buh. Può dire che l'altra è chiusa. Stanno aggiustando, ma già è una di carità, via. Mio figlio ci aveva già quasi 4 anni, l'ha fatto il cotto, io poi ci vado 2-3 volte all'anno, poi viene già lui più spesso, però quante volte che vado fa carità, quest'anno sono andato già 4 volte, mi sono straccato, comunque sono 135 chilometri. Lo so, 135, 270 andate e ritorno. Cappa. E la rottura di scatola, perché poi quando trovi la strada e fai tutte le cincane, rotatorie, è tutto un casino, capito? Io, per carità, sono sempre i fascelli. Adesso quando c'è il 31, già sono una linea da Santo 31, io quando sono sceso giù a Sant'Antio, che è un disastro quella strada. Anche lì casino. Casino, tutta buche, ma buche però. Mi sono tanto per fare giù garra in mano a camminare, ma neanche città, l'hai visto in città a Sassari, tutta buche. Sì, noi ne parliamo a Sassari. A me mi che i politici vorrebbero dire che tutta la mondezza, ma che non si riserva uno. Poi quest'altra segretaria del PD, che non so da che pianeta delle scimmie ne è uscita, che fea che i droni, non vuole il presidenzialismo, ebbene, praticamente il Presidente della Repubblica lo deve fare sempre loro, capito? Ma che penso sì, il cittadino lo deve fare, il popolo italiano deve fare il Presidente, non che ci vuole niente, la mazza gliene varia. Se è mai stato fatto quello che vuole, ho capito, ognuno fa l'interesse della sua tasca, mica l'interesse della tasca tua. Sono fatti così oramai, sono tutta una massa di bagnacci. E io ho scritto infatti su Facebook. La segretaria del PD, da che pianeta mi è arrivata? La pianeta delle scimmie, perché forse la scimmia è più bella di lei. Ma ora volete ricattoli, un casino, eh. Allora, mi pare perché Enrico, capito, lei è andata a fare una cazzata di piazza con una borsetta a 2000 euro, ma si mette la vergogna. Dobbiamo dare più lavoro. Se per 13 anni hanno governato loro senza che nessuno li votasse, ci hanno butti in crisi e poi va a dire adesso perché c'è un altro partito, va a rompere il canto, ma vai, ci viene a mezzo, pagliaccia. Per carità, 1000 euro alla disciplina, sa pagliaccia. E allora, per carità, passa mia luce. Voglio se Gianni ha finito le trattative, Gianni. Ehi, vabbè, ci ho parlato, va. Cava gara. Riprenditela. Franco, il tuo cosa c'ha anche 50 mega? Cappa. L'ho beccato uno come il tuo, 300 euro. Ho visto anche io quello lì. Ma te l'hai preso? No, non l'ho preso. Perché non so come sia, capito? A me mi piace vedere le cose. Vuole fare la post-p, non c'è tracciabilità. Se fosse stato PayPal, sì. Ma post-p è un po' loffio. Ho detto sembrava andare col corriere. Ha detto no, quello lì non posso farlo. In contrassegna. Sì, magari è una buttitura. Il baricano 300 euro già. Chi lo sa. Ero trattative con un altro, poi non gliel'ha preso. Mi ha detto guarda, è ancora libero se ti interessa. Non lo so, lui ha detto che è una vita che da quando l'ha comprato lui nuovo l'ha sempre usato, non gli ha mai dato problemi. Sono d'accordo. Però a chi vivi tu? Non sarà in Napoli, no? No, non è di Napoli. Sta anche io, è un 680, è nuovo, bello, è 300 euro sta parlando col microfono normale. Non lo so, però costa PayPal, così è. No, posto qui. Magari le mandi l'idea anche mandare la merce. Fosse stato a PayPal c'è l'assicurazione, se non ti mandano l'apparecchio te li danno loro i soldi e poi si arrangiano loro. Quando invece c'è post-pay di mezzo non c'è tracciabilità né niente, di che tracciati. Post-pay a mio nipote non ho fottuto 450 euro, ha ordinato un bel telefono per il figlio, bruciata, è andata l'avvocato, c'è nulla da fare, fece baetta, infatti o fai il contrassegno, sennò c'è la biglialucci. Guarda, quella di via Pietromicca del tabacchino l'hanno cromato la carta, capito? Pensa un po'. Carta cronata, gli hanno svoltato il conto. Ma cosa, a posto qui? Però solo che carta era, la carta forse del Banco di Sardegna. Ma c'è l'assicurazione, tu lo sai, la mia collega l'avevano clonata, le avevano rubato 10.000 euro, ma la banca gliel'ha tornati perché è assicurata. Ah boh, non lo so io questo. Un attimo che giro e poi spengo il gas e metto il tappo. C'è della banca fra lì li ritornano. C'è posto pay, non poi su Brooklyn. Anche posto pay, perché a un amico gliel'avevano rubate 150 euro, è andata alle poste, gliel'ha detto. Come mai c'era la carta bloccata? Perché stanno prendendo sempre i soldi, hanno preso 150 euro. Volevamo essere sicuri che fosse lì. Allora io non ne ho ritirato. Ma non può fare niente, non li può recuperare. Poi abbiamo chiesto a un amico che lavora lì e ce li ha fatti recuperare. Dopo un mese ce l'hanno tornati. Che stavo dicendo? Il numero telefonico c'è di questo, no? Sì, sì. Di questo apparecchio. Cosa c'è il numero? Il numero cellulare ha lasciato per caso. No. Vedi. Perché subito ti lascia il numero di cellulare, ma strano, qui non li daga. Come dice, poi ci vede, bisogna vedere se lui, capito? Il casino è quello. Ma se mai li prendi mai li avrai. Cioè, come fai a sapere? La futtidura c'è da tutte le parti. Come fai a sapere se la futtidura o no? Cosa ne sai? Bisogna rischiare, se vuoi rischiare. Se magari arrivi la parecchia che non venuto a dentro. Un mattone, te ne mangi. È successo, eh? Lo so che è successo. L'hanno fatto col telefonino anche a questo tipo che si è fermato al rifornitore, ha visto questo, si è avvicinato e ha detto, ascolti, ti interessano dei telefonini di quelli, come che si chiama, gli Apple. Praticamente lui l'ha preso, l'ha pagato una gazzata, 300 euro mi pare, costava 1000 passa euro, è andato a casa sua, l'ha visto, gliel'ha fatto vedere, poi come si è girato ha cambiato il pacco, che se l'ha dato il mattone dentro c'era, no, l'ha fatto una patata, non il mattone, una patata. Però questo qui ha avuto il coraggio di andare ancora a vendere dopo che va fregata la cosa, sono andato a rintracciarlo con quelli che fanno recupero crediti, no? Praticamente sono due bestioni con muscolatura supersonica e sono andati lì e lei ha fregato questo signore, gli ha messo e questo qui si stava già girando, lo voleva picchiare, che se l'hanno fermato perché se no gli buone a mano, dopo lui è andato a casa sua, l'hanno seguito, questo qua ha preso, gli ha dato tutti i vasi che c'erano, era incazzato loro perché non va a regalare la nipote alla, come si chiama, regalare la nipote che si doveva laureare, no? E ha fatto il pacco, capito? Cazzo, non è buono, ci ha fatto la battata dritta. Il gruppo che ho ordinato io mi è arrivato e non c'è la batteria. Vado a chiamarli è un cacchio, non mi rispondono. Le ho mandato messaggio, non mi rispondono. Quindi niente, prima mi hanno rotto le balle a me, che anche di notte, mi raccomando, ritiri il gruppo, qua e l'equa, eccetera. Perché è stato un paio di giorni lì e là, perché a quando veniva il corriere io non c'ero a casa. Quindi alla fine ho detto, insomma, mi avete rotto le balle anche di notte, adesso mi chiamo io, invece non mi rispondete. Vedrai che voi fate brutta fine, l'ho detto. Occhio perché vengo a trovarvi. Che cosa? Ma è la seconda moto? Nuovo di zecca. E che cosa mancava? La batteria per mettere in moto. Ma era compresa, sicurosi che era compresa. Batteria inclusa c'è scritto. Ah, l'ho avuto in dura. Adesso non rispondono più, deve essere che la volta spedita non si fanno più trovare. San Giuliano Milanese, c'è la via e tutto quanto. Però aspetta un attimo, già, noi che verranno tolta questi che fanno le consegne invece. E tra l'altro il pacco che mi ha dato la SDA era anche adotto. Ma lui non le ha messo, tu le avevi investigato la batteria come ha detto fra. Niente di strano. Sì, sì, quelli hanno aperto e ne hai cavato la batteria, e ce l'hanno detta, tranquillo. Però il fatto che non risponda a quello lì è... la fa pensare brutta. Cappa. Ma se mette batteria inclusa nel gruppo, ci deve essere la batteria, mi sembra molto strana la cosa. Io il messaggio che l'ho mandato a vocale, gli ho scritto, fatemi capire, ma vi siete dimenticati di mettere la batteria o me l'ha presa la SDA? Non mi rispondono. Sei truffato, Olivia, per carità. 350 euro. Anche quello della SDA mi sembra, ha detto comunque un buon prezzo perché un gruppo del genere costa un bel denaro. Allora, quel gruppolino ti basterà 500 euro a comprarlo, perché è bello, un bel gruppo quello. Sotto 8,5 kW. E a Puglia. Quindi non l'hai potuto manco provare tu. Praticamente lo posso mettere a strappo con la cordicella. Niente, mi devo prendere una bella tanica di benzina perché il serbatoio è con 15 litri, mi ha fatto già l'impianto di lusso, cioè praticamente se lo vedi io stacco il magnetotirm che ho installato fuori, con la tappa in scatoletta, e elimino la corrente dell'Enel, stacco le prese P30 maschio e femmina e poi metto quello del gruppo a quello che è dentro casa e va a finire la vita differenziale. E automaticamente c'è la corrente del gruppo. Attacco la mattina e poi lo spiego la sera e uso l'Enel poi praticamente quando la sera soltanto, la notte. E vabbè, la notizia per gli elettrodomestici, perché poi la notte la luce la devi accendere, normale. E vabbè. Queste fregature si prendono solo quando la roba è spedita, quando tu vai a vederla di persona sei sicuro che c'è tutto, te la controlli e via. No, il gruppo è quello che ho visto, è tutto perfetto, sì, quello sì, soltanto manca soltanto la batteria, è perché non mi rispondono, mi rompono le palle. Ma perché la batteria ce la devi mettere tu se era compresa col gruppo, scusa, te la devono dare, se no diciamo i carabinieri nel posto e vedrai che gliela fanno togliere fuori. Infatti io gli ho detto che gli faccio una bella visitina, per stare attenti. Ma se non vedo i carabinieri chiamano la caserma del posto e parlano con i carabinieri di là, capito? E io ho chiamato la stessa notizia, ma a quanto pare vogliono che gli faccio un'email, che se no al telefono non ricevono niente, ma se la pigliano in culo. Ah, te la compareggio una batteria. Da quanto è quella batteria? Cos'è? Una 45 ampere? No, non lo so, mi serve solo per mettere il motogruppo e basta, penso che con 40 ampere va bene lo stesso. 45 ampere, a Puglia. E vendono anche a coso, vicino a casa, al discount, vicino a casa le vendono tutti. Ma è negozio sul mercato. E allora? Se le batterie vendono, bu bu. E gatto gucci, amici? Non lo so, Tuli. Bisogna che vai a vedere, ma ci sono. Niente, che sono care, me ne prendo la bricola, che costa 48 euro. Anche dai, ci mi so, 38 euro, 45 ampere. Non mi bilancinisci la gira. Non è per 45-50 euro, mi dà fastidio, Fra, che non vede la batteria, porca miseria. Vabbè, se no sei costretto a tirare a strappo con la cordicella, una rottura di palle. Ma se sbagli poi rimane in braccio attaccato, lì c'è paura mia. Puoi fare strappi, e lascia perdere. La motorina è meglio, giri la chiave e metti in moto, cosa c'hai, Givi? A volte non parte questa 3 ore questa cordicella. Guarda, c'è un certo giattolo ogni volta, lo trattavi, se sudava non partiva più. Tornavo, partiva per un po', poi si chiudava, e tu mi hai a terra. ma io perché l'ho comprato? Perché dice con la chiave metti in moto, eccetera. Infatti ha fatto vedere che ha attaccato la saldatrice, la mola grande e in più la sega circolare, tutto tre contemporaneamente saldando. Cioè quindi c'è un ben 8 kW e mezzo, un ben. Io ne ho uno da 800 coso, va. 800 ampere, una regia, di scriva di campagna, poi ne ho uno da 1000. Sì, ma quante kilowatt di sviluppo? La saldatrice te la tiene, però se attacchi altra roba si bossa. No, questo puoi attaccare quello che vuoi. 8 kW, tu pensi che in casa sono 3 kW? Io sono auto. A voi, 8 kW è buono. Ne ho visto uno addirittura da 16 kW, ma la figura, roba di 800 e passa euro. E questa pesa 50 kg. La giumma me ne farà la mazza, me l'ha aiutato loro a mettere in macchina mia. Poi quando sono arrivato qua a casa, ho preso il carrellino, piano piano me lo sono messo sul carrello, l'ho fatto simulare e poi sono in casa. Mamma mia, che è stato un bisso. E per sapere cosa consuma, però, fate il calcolo di quanto consuma ora. Infatti, devo provarlo, ma sono le batterie, insomma, fine che fare la batteria, voglio mettere la benzina e provo, capito, fra. E voglio vedere in quante ore e quanto consuma. Fate il calcolo, se consuma un litro a ora o due litri a ora, vedo un po'. No, pesa molto meno, dai, se si abbassa il consumo. Da voi, io non lo so, io so che si tu cosa consumare, da voi, provalo. Cazzo. Vabbè. Io mi stavo ordinando dei pannelli, non me ne hanno mandato, c'è la biglia luce. E allora, cicca cicca, ho messo 3 kW. E invece, nunca. E vabbè, usiamo il gruppo detto. Ma la luce quanto ti arriva, ombre? Mi era arrivata a 3,50. Certo. Quanto ho pagato il gruppo? Quindi in macchina. 50 euro di luce, ogni due mesi, così. 350 euro. Ogni due mesi. Quindi, non è di meno, va. A me che mi ha fottito, fra, è quello col destinatore piccolino, 2 kW. Quello riscaldamento, non è poco succhia quello lì, ce l'avevo anche io, l'ho eliminato da qua, per carità. Lo so, quello va bene, lo scaldabagno, viene farti la doccia, metti quello, mezz'ora pure devi spegnere. Infatti, solo un bagno lo puoi trattare, scaldo il bagno e boh, scaldavo la stanzetta e poi, boh, lo stacco. Perché c'è la scelta giornata accanto, uia, a su che stufa pellet e stufa zibro. E allora, anda bene, poi solo l'inverno puoi usarlo quello lì. Doccia, uso anche l'estate, posso usare fresco, non c'è problema. Gianni, eia, riprenditela. Ehi, aia, sono a dolori, Toni, alle gambe. Mi fanno male tutte le ginocchia. Andavi bene, andavi, adesso. Ma le ginocchia adesso mi fanno male, non c'entra nulla il femore con le ginocchia. Le ginocchia mi fanno delle male. Io mi incaccio a maggiore tempo di farsi in miglia. Ma c'è tutto calcificato, ho fatto le lastre ieri, l'altra lì. C'ho la calcificazione del femore, la spalla, tutto calcificato. Andiamo bene, andiamo. Mangiato, Natalia. Cosa? Ho detto, ho già mangiato. E adesso ho finito. Vabbè, dai, riprenditela, che Marco non c'è così, lo vi sovramodulate. Mi sei tu che su mi sovramoduleggiami. Meno bene. Si sente calpestante stasera troppo volte. Cazzo è proprio veloce chi c'è l'abortante chi c'è. I campionati mondiali vinci. Oh, un attimo che mi sposto per assaggiare la mia gran pasta e fagioli come è uscita. Me la metto in un piattino poco poco per assaggiarlo. E poi vi dico come è uscita. E faccia come se fosse a casa sua. Cappa, così Trudio. Comunque, questo tempo di merda, Natalicio, mi dice gente così. Vedi, caldo, freddo, ti butti, Ti butti sì. Ti vengono i dolori, è un casotto. Io, per esempio, mi torno a mal di schiena, vado, poi posso massaggiare, anche su Voltare, la mia moglie. Oh, yeah. Cazzo un rudere sono diventato, non ne seguo più. Non pare bisogna andare a fare la revisione. Ma cosa la revisione? Rottamato voglio. Davvero? Sì, è vero. Vabbè, comunque è il cambiamento di temperatura che fanno questi. Chi c'è la truce è un casino, Capito. È un problema. È un problema sì. In che sarà Ghidami? Ma cosa ha detto? Ti rottamo io. A proposito, dirle che c'ho a me, me ne sono dimenticato a passare quel frustino piccolino fine. Ehi, cazzo, però me lo devi dare, chi è io la devo frustare, chiccia? Nel cofano ce l'avevo. Su, frusta! Frusta lì o non le frusta? sentita l'hai? Ti ho detto già che c'ho quella frusta bianca, quella sottile. Ma ci vuole l'unico, giusto? E quello lì, oppure la bicicletta. Quello lì lo fanno. Qualcosa ha arricciato il bue. Faccio prima, stiamo vedendo l'attrezzatura applicata per il frustino a cavallo. Un fumo questo di Sergio Leone, avevamo messo il nome, il titolo, ah, giù la testa, stata pigliata lì, era frustata tra la patezza dentro l'ovile che sta pagando. Adesso vado e mi compro un frustino per i cavalli, e così la frusta questa. Ci vuole quello sottile però, non grosso, quello sottile. E che su questo ti fa fare come a te, anzi di più. No, quello sottile. Non plusi. Però lo usavano per i cavalli. Promosso, troppo buona? Ma non vale, tu sei di parte. Manda un poco, dai, a vedere chi sta, come nel crono come te. Non è mio crono, perché stava giuro. Ci ho messo una patatina bella fatta fina, a petti piccoli piccoli, si è sciolta, ha fatto un bel brodo. Mamma mia, quanto è buono. Stasera, un bel bombardamentos. Ma te l'immagini questo Gianni che vuole la mia... Non gliela dare, mi! Lui si deve imparare a cucinarla. Hai capito, Natalì? Ha detto che se continua così si mette la fasciura, che non è cucineggia. Ah, così è. E allora? Andiamo con la fasciura, non mi piace. E cosa ti piace? La patata. Patata. E i carboidrati ti fa male. Lo sai che non li puoi mangiare. Ti fanno le patate, ti piacciono tutti i mondi. Questo. Poi la patata proprio a lui gli fa male. Io le ho patatine, ce ne vuoi con salate però sono. No, io le patate le mangio in tutti i modi, in verde, con la carne, fritte, in tutte le maniere. A pure, grazie, il pure mi piace un bel. Anzi, ce l'ho, lo devo fare, ce l'ho quello in busta pronto, me lo devo fare, intanto fai fretta a fare. E infatti non ne fai mai però. Cosa? Non ne fai mai, ce l'hai ma non ne fai. Tanta cosa che vai e non la fai, non ne voglia. Che ha detto che non ne voglio, l'ho fatto anche da poco. Quando c'erano mio nipote e mio figlio l'ho fatto per tutti. Però adesso mi ha avanzato la busta e mi faccio anche quello. E carboidrati, ti fa male? Cazzo, non vuoi dire di gorro dall'aero? No, io non ne mangio pure io, assolutamente. Anche troppo ho fatto la base fagioli e c'era pasta, ma ne ho messo pochissima pasta. Mi so, roba di quasi un chilo di fagioli, fatelo conto. E 2,50 circa 30 di pasta. E perché ti credi che i fagioli non ti fanno male? Se ne mangi più di quel tanto fanno male, mi pare più di 50 grammi non li puoi mangiare. E vabbè, tu già ti rifai con i gelati, eh? No, allora ricordati una cosa, quando mangi i fagioli lo stai ammazzando. Quando poi fai lo scorreggino è l'anima del fagiolo che va in cielo, quindi non c'è più. Cara, è vecchia, lo dice Baolio. Stelio, cos'è Tonio? L'anima del fagiolo che va in cielo, Olio. Opa, Franco! Ehi, dai, no, ho preso il caffè che me lo tromendi. Che capita? Natalì, ma come tu hai già mangiato? Ehi, Natalì ha già cenato. Gava. La pari prevede di corso, acqua e limone e ti ti passa, tranquillo. E male invece c'è questo virus che prende l'intestino, è un casino qua. Non se ne comprende più nulla. Un attimo, quello X che mi ha chiamato Vittorio. A me mi ha appiccicato 2 giorni, Franco. Per 2 giorni sono stato male, ma male, barone. E mi sono dovuto fare anche la camomilla perché era mal di pancia forte. E a me lo stesso, mi ha fatto mal di pancia, cazzo. Ed è in 3 decenni la roba di tiacchino, ma dimmi tu. No, io mi sono preso subito l'Ormix. Già me l'ha stroncata, dai. La stroncata, non subito però, l'ho dovuto prendere 2 pastiglie. Io una di Modium ne ho preso, però ha smesso, non ho fatto più. più nulla. L'immodium è più immediata, il Norvix è più lento a far agire, però l'immodium è immediato. Vabbè, l'imputante mi si è abbassato, cacca. Roba di gusto oggi. Patate, carote, bollite, senza nulla. Deve mai prendere acqua e limone, canotti, è roba un po' asciutta, perché non può mangiare proprio che peggio. E il riso in bianco. Come se fagioli non ne ho mangiato, no? Sennò guai. Il riso in bianco, mi ha detto il dottore, manco un goccio d'olio, niente. Né formaggio né olio, solo bollito. E io ti ho detto, riso bollito devi mangiare, boh. Se ci aggiungi il limone è anche meglio. E questo ti forma il capo. Ma è un virus, io ho detto cavolo, eppure non ho mangiato niente che proprio ha fatto male, ho mangiato il pollo, l'insalata, l'arancia, che cosa sto mangiando? E mi ha fatto male. Sì, vabbè, a volte dipende come c'hai lo stomaco, capito? È un casino. Ma sì che mangi roba piccata, roba, ma ho mangiato roba normale, dai. È bello che non solo io, anche il cane. Uno è tu. Tutti e due. Sì, già vabbè. Allora mangia il riso il cane. Cosa? Ho detto il riso lo mangia. Sì che lo mangia. Lo mangia, basta che gli metti la carne in mezzo, mangia tutto. Poi ha comprato un sacco di crocchette con le vitamine. 12 euro. E io cosa vuoi dire? Io le pago 50 euro le crocchette di Tyson. E vabbè, quanti chili però? Queste sono 7 chili su due. 12. Oppure li faccio la carne bollita, capito? Lo pollo non me ne do di quella roba lì. Oppure se glielo do, le tolgo le ossa e gli do solo la polpa, capito? Anch'io faccio così. Quando gli do il pollo, però il pollo meglio che non ne dia, lo fa diarrea, il pollo. Vi do carne di cavallo e carne di manzo. Qualche volta maiale, ma molto di raro. Non maiale niente io, il mio. Riso è bianco, oppure macinato, bollito in mezzo al riso, oppure la cimental in mezzo al riso, sempre. E lo mangio tranquillamente. E beh, non è di guardarli sempre. Non è che può mangiare sempre crocchette. No, il cane quando gli sono crocchette sono troppo asciutte. Io sono del parere che... Ma i cani hanno sempre mangiato roba cucinata. Non hanno... Le crocchette prima manco esistevano. L'hanno inventato dopo le crocchette baffadina. Ma chi sa che bucare i limoni in mezzo? Ma basta, roba del genere, gliela porto giù e mangia quella, capito? Di solito lui mangia la roba che mangiamo noi, crocchette non è che te ne tocca più di tanto. E anche il mio, se non le metti in mezzo all'altro cibo non le mangia. Se ne metto un pugno in mezzo all'altra roba, allora si mangia tutto, a volte le lascia pure. Si metto la pasta, la carne, qualche volta qualche zucchina o carota in mezzo. Se no non te ne toccano. No, non le mangia, se ne scappa, ma se ne scappa, non dura, non rimbiazza. Figurati. Riprendi Natali. Il mio mangia solo quello che mangio io. E blu. Perfetto, iniziata. Capito. Se lui mi vede che la mangio io, allora lo mangia la roba, se no nulla. Ma quella che mangi tu, Natali, ci metti il sale. Il sale fa male ai cani, non bisogna mettere il sale. Quello sì, Comunque se ce la faccio in settimana la porto giù con l'antenna, Se ti serve una mano dimmelo, fra, tanto sono libero. Tranne lunedì che devo fare delle visite e poi sono libero, non c'è problema. Adesso vedo se ce la faccio questa settimana, magari alla prossima. Nella voglio togliere ci metto quella là, capito? Anche il filo devo cambiare, quel filo non serve. Ce l'hai il capo nuovo? Ce l'ho, quello qua al tuo, quello grigio. Quello che c'è in campagna, non so se mi basta però, devo misurare quanti metri erano, se erano 10 o 15. Non me lo ricordo io, fra. In campagna tolta la. Oh, ne ho tolto tutto, ma tanto già è una zona loppia lì, non è che esci bene, capito? Ho provato con la Bumber e anche con l'altra, è vero sì, ma nella zona di Sassari è molto negativa perché è zona bassa. Fossata come zona, è troppo lontana da Sassari. Eccomi. Buonasera. Ti volevo chiedere, in grosso modo, Fra, dove è la campagna tua? L'altro giorno ho provato dalla macchina a Bancali, eravamo, no? Nella campagna che abbiamo a Bancali, a Bancali, e dalla barra mobile arrivavo bene a Sassari. Ma io sono in un fosso, capito. Ma sempre a Bancali? Nella zona meccanica, proprio in fondo a tutti. Ah, molto in basso, non sai perché, anche lì comunque c'è un dislivello notevole, cioè, rispetto a Sassari, quella zona dove ho chiamato l'altro giorno, già che era 9 o 9.5 che ha fatto la prova delle antenne, mi aspettavo molto molto peggio, anzi ti dirò che lo sai che la ricezione mia era più bassa, cioè io vi ascoltavo di segnale più basso di quello che mi avete trovato voi, conta che ero circondato dagli alberi, cioè l'antenna era in mezzo agli alberi, c'era un albero davanti, uno dietro, uno di lato. Vabbè, e l'antenna c'hai tu sotto? È simile a quella di Gianni, 1,60 m di acciaio inox in macchina. 1,60 m, quella che ho io mi pare che è 80 centimetri. Ah vabbè, però se tu mettessi una PLC 800, una... Gianni è rimasto molto contento di quella. Potresti prenderti un'altra simile, naturalmente se non la vuoi lunga è un conto, Gianni riprendi, sai che tanto stavo guardando internet, riprendi voi. Sì, poi ho fatto le comparazioni, dal quadrato abbiamo fatto le comparazioni, Turbo 2001 montata nella macchina mia col mio apparecchio, poi montata quella lì dove c'era la Turbo 2001 e arrivava con due segnali in più, quella piccola. Oh Fra, dimmi Marco. Adesso per dire, queste antenne veicolari sembrano tutte uguali, non lo sono. Io ho sempre avuto la Midland ML145 che è 1,60 m, no, circa. Ne ho presa una clone senza la base, proprio un'antenna, solo tipo 20 euro, marcata Telecom, no, LS145. Guarda, dalle foto su internet è uguale, sia di all'esterno sia anche di bobina, no, all'interno. Tanto sono più uguali a rendere uguale. Beh, lo sai che c'è una roba di più di un Santiago, di forse anche due Santiago di differenza, cioè rendeva pochissimo. Ma io ce l'ho, Marco, ho l'autocetter, non la uso, ho la magnetica, ce l'ho buttata in campagna, no, non è piatto, troppo lunghe quelle antenne, Marco, no, non mi piacciono. Sì, ma per dire, ci ho svitato, ho messo l'antenna, segnale X, prima ho usato quella da 13, no, segnale top, svita, quindi sulla stessa base, stessa posizione, identica la posizione, svito una, metto la Midland e sono salito di un Santiago quasi due, adesso Gianni me l'aveva detto, non me lo ricordo, per dire, sono tre uguali, invece è un cacchio, ecco perché è meglio pigliare sempre Sirio o Midland, che poi tutte le copie, anche la copia della Midland è tutta copiata dal Sirio, dalla 145 Sirio, vai Gianni. Vabbè, qualche cosa c'è che cambia, magari non si vede internamente, ma qualcosa cambia, Marco, sicuramente, perché la differenza è tanta, non è poca, per essere uguali come antenne fosse stato magari mezzo segnale, ma erano quasi due segnali in più che ti dava, quindi... vabbè, comunque, io ho appurato dal quadrato, c'era Luca che ci ha dato i segnali, ha attenuato e con una arrivavo 3 e con l'altra 5, è attenuato. Sì, infatti guarda già, mi piacerebbe provare un giorno che riusciamo a farlo, la prova c'è, cioè, la tua messa sulla mia base e fare il confronto con la mia, perché se gira risulta ancora migliore la tua. Vabbè, la uso una volta ogni 1000 anni, però potrei fare l'acquisto e tenerla. Infatti, ci vuole poco, ma sta tromba si è quadrata, andiamo un giorno e lo facciamo, che problema c'è? Sì, vabbè, io è che ogni volta ci vuole Gesù Cristo a spostare la macchina, io lo sai, no? Ormai da quando c'è la moto e chi la tocca più la macchina? E poi vabbè, poi farò la prova tra la mia da 1,60 e quella da 1 metro Sirio. Voglio vedere la differenza tra l'una e l'altra. Si può fare, non c'è problema. Comunque io mi sono tolto il peso della Turbo 2001, perché la Turbo 2001 è una signora antenna, però è troppo pesante, troppo ingombrante, vai, ti dimentichi, magari stai scendendo nei parcheggi, le depositi di usciate, le dimentichi, tra, come di aggasino. Sì, ma sai cos'è? Quella in particolare, uno perché la prende? Tu dici perché è lunga, è la più lunga, la rende di più. Però quella è fatta anche per chi usa centinaia di watt in macchina o sul camion come i camionisti. Però volendo, l'Assirio, la LEM non lo so, però l'Assirio ti fa un'antenna lunga 2 metri ma sottile come quella che hai adesso. Tu immagini, stessa antenna che hai adesso, più sottile, regge meno watt, però lunga lo stesso 2 metri. Quindi volendo, per la lunghezza la trovi la sostituta, però è più leggera. Invece la turbo è grossa perché c'ha lo stilo che è grossissimo, la bobina non ne parliamo, è tutta pesante la turbo, capito? Vai fra. Quella è bella portarsela appresso per dire quando vai a Usi lo ti fermi, la piazza e via. Sì, sì, sì, certe volte, tu sai cos'è, tu vai un po' più spedito in macchina, io vabbè guido tipo pensionato, no? Cioè dove c'è il limite di 50 io vado a 50 perché se porto contravvenzione a casa me la fa mangiare mamma, già lo sai. E ieri sulla Mudimudi c'erano i vigili urbani con la macchinetta, però io ero dall'altra parte, penso che io stavo anche sorpassando, il fatto è questo. Ero dall'altra parte, ma penso che non mi abbiano preso, la macchietta era puntata verso le macchine che scendevano da Sassari. Via. E poi sono maledetti quelli lì, quei telelaser ti beccano un chilometro, cioè se loro, se c'è la portata libera che è un chilometro, ti vedono, riesci a misurare la velocità, che il diavolo se li porti, vabbè, vai Franco. Sì, a 150.000. Franco ha fatto una pausa, credo. A proposito, se ti dovesse interessare, stanno facendo il concorso dei vigili urbani, Marco. No, ma bisogna essere, credo, laureati, almeno laureati, ormai non prendono manco più diplomati, io diploma o basta, non sono andato oltre. Terza media! No, per i vigili urbani devi essere diplomato, o geometra, o ragioniere, o titolo qui pollente. Ragioniere, sì, sì, è che mi farebbe ribrezzo essere dei vigili urbani, perché già non mi posso vedere, a uno una volta gli ho detto, sai cosa gli ho detto anni fa? Oh, ha messo una multa che proprio era il colmo, cioè la macchina, sì, era, che ne so, anziché a 5 metri dall'incrocio era a 4 metri, però nessun intralcio alla circolazione, nessun intralcio alla visuale, però dice, ma basta, insomma, mi aveva fatto una multa. Al vigile gli avevo detto che l'equivalente gli andava in chemioterapia a lui, l'equivalente che io pagavo di multa. Ma l'hai detto dove? Sì, sì, gli ho detto davvero, ho detto tanto l'equivalente, ho detto che spende la multa lì. Il primo è rimasto con gli occhi incazzato, no? Poi ha detto no, dice, a lei le vanno in chemioterapia, a lei a chi le vuole bene. Oh yeah. Ma poi bisogna vedere se c'erano 4 o 5 metri, prende il metro e misuriamo, gli avrei detto. No, già, magari è che, sai cos'è, lì l'incrocio era conformato in modo strano, poi l'hanno risolto, l'hanno cambiato, però anziché a 5 metri era magari un metro in meno, magari 50 centimetri, è come quel vigile che ti dice, basta anche una ruota sulla striscia gialla o sulle strisce blu riservate ad altri ed è multabile. E quelli battono cassa, capito? Loro battono cassa, le mogli battono altro. Tu devi essere all'interno del posto macchina, che c'è disegnato sull'asfalto, se no se c'è le ruote sopra ti possono mettere la multa. Oh, ma lì non c'era disegnato nemmeno nulla, era un incrocio anomalo, un po' come l'ha conformato, infatti l'hanno cambiato, è diverso adesso già. Cioè dava adito a interpretazioni, sì. Capito, vabbè. Tu non era un'offesa, quello era un augurio che gli ho fatto. Poi... Ma come te l'hai arrestato? No, è per cosa? Una cosa è se lo offendi proprio parolacce, cosa. E quello era un buon augurio, diciamo. Poi non so se ha avuto effetto. Parolaccio. E vabbè. C'era la macchinetta comunque, nello stesso punto dove mi hanno preso i punti e mi hanno messo la multa a me, a 72 km orari. Sì, ma Franco si è sentato, Franco? Natalino c'è ancora? Sì, ci sono. Sì, oh, guarda che già io lo sai che sono una persona educata e cosa, però quel giorno veramente soldi rubati, cioè sono sbottato perché quelli veramente erano soldi rubati. Purtroppo trovi questi taccani che dicono io sto facendo il mio di lavoro, li faccio il suo. Così, hanno risposto così a me. Allora, io c'era un periodo, io fornivo questo ristorante e portavo i pezzi grandi di carne e poi li tagliavano loro, no? E portavo bibite, tutta questa roba qua. Ed era in piazza Porto Torres, quindi parcheggio in piazza non ce n'è. L'ho messo a seconda fila il furgone, ma ci passavano tranquillamente le macchine. E c'era il vigile, ha detto un attimino che scarico, sta arrivando subito, e lui non ha detto niente. E arriva questa signora, mi fa: chi è il padrone del furgone? Ho detto: perché? Perché c'è il vigile che le sta mettendo la multa. Si è sconfuso, ha detto: scusi, che l'ha anche detto. Lei faccia il suo di lavoro, io faccio il mio, così mi ha detto. E gli ho detto che l'aiutino tutti nella vita come lei sta aiutando a me. Ehi, ehi, vedi, non è offesa, non è niente. All'epoca si chiamavano ancora vigili urbani, quando gli avevo fatto questo augurio. Guarda, erano in due, uno con gli occhiali e l'altro con i capelli un po' castani. Io lo chiamavo il francese perché c'aveva la faccia un po' da francese. Questi sistematicamente, dove c'erano divieti, c'è quelli proprio puntiglioso, tutta la fila di macchine multate, li vedevo in tutta Sassari, quelli proprio facevano solo multe, nemmeno anche oltre la ragione, la comprensione, proprio fabbricatori di multe, di sanzioni. Adesso dice che gli danno anche l'incentivo su ogni multa che mettono. E quindi sono, pensa, quello però è una cosa strana, perché lì sono proprio invogliati a multare tutto il possibile, anche le cose un po' incerte, le multa, dice, tanto il cliente deve fare ricorso, si perde tempo, capito? E poi senza contare che hanno un comandante che li controlla, li comanda a bacchetta, via. Sì, poi a dirla tutta, da quando adesso si chiama, non vi giro, la polizia locale, stanno diventando anche un po' stravaganti, più di quanto non fossero già, dai. E a te ricordi quello che va legato al palo del semaforo con le manette, questo tipo? No, quello no, però mi ricordo praticamente quando avevano cercato di picchiare quello a Carbonacci, sai, periodo di Covid, quello era, vabbè, un mezzo randagio, si dice. Però io mai avevo visto un vigile urbano agire in quel modo, cercando di atterrarlo con calci, cioè quello non... stava solo dicendo, oh, vabbè, lasciamo perdere, tanto hanno ragione sempre loro, come i matti. Ti ricordi a Carbonazzi, quel quasi pestaggio di quel cittadino lì che hanno ripreso, poi ci sono passati quelli che hanno fatto le riprese? Sì, mi ricordo tutto. La moglie era scesa per buttare la mondezza, non si aveva messo la mascherina, l'hanno fermata, gli hanno chiesto i documenti, il marito era affacciato alla finestra, ha detto: aspetta che li sto portando io giù i documenti. Ha portato i documenti, perché li stavo dando, mi dia anche i documenti, dobbiamo fare la multa. E perché, gli ha detto, stava buttando la mondezza a 5 minuti, doveva mettersi la mascherina, questo e quell'altro, tiro, alla fine l'hanno buttato in terra, l'hanno picchiato, fatto, e poi l'ha ripresi una dottoressa che c'era lì, che abitava nel suo portone, e ha ripreso tutto, capito? Il problema sai qual è? Che chi faceva questi video, no? Ha detto parole tipo bastardi, roba del genere, poi il video è stato diffuso e gli hanno contestato quello, magari. Vabbè che erano lontani, cioè il singolo vigile urbano non era identificabile, però il fatto che loro abbiano insultato mentre riprendevano le forze quella è stata la cosa peggiore, non tanto la presunta cosa della privacy, di parte che è indivisa, è un pubblico, che è pubblico ufficiale, può essere ripreso, che ne dicano loro. È una pubblica funzione, quindi non è che può fare storie, però li hanno insultati, lì hanno visto che gli insulti erano diretti a loro. Credo che sia finito con una... ci hanno rimesso, quelli che hanno ripreso, ci hanno rimesso. Li puoi riprendere ma non divulgare, non puoi metterla sui social, eccetera, eccetera, come fanno certi. Vabbè, comunque, Sì, quel periodo lì io ne ho visto un altro su internet di questo autotrasportatore che ha messo il furgone sul marciapiede perché non c'era parcheggio, doveva scaricare un pacco. Loro si sono avvicinati, gli hanno aperto lo sportello, l'hanno tirato giù dalla... ma proprio l'hanno strattonato davanti a tutti. Lasciatemi stare, sto lavorando, non ho fatto niente di male, sto lavorando, lasciatemi, gridando, e loro l'hanno buttato in terra, fatto, e alla fine c'è gente che ha chiamato la polizia, capito? La polizia subito gliel'ha fatto lasciare, questo ragazzo gliel'ha fatto lasciare, gli ha chiesto cosa era successo e tutto quanto, poi non lo so se gli hanno denunciato. Sì, macello, certo, cosa non ve lo vedere. Sì, per una mascherina fare tutto quel casino, sì, dice anche quello era medio randaglio, così, ma mi è sembrata anomala la risposta loro, capito? Cioè, il modo di agire loro per essere vigili urbani, al fine quello sono, mi è sembrata un po' troppo fuori misura, ecco. Non... anche i carabinieri fanno cose del genere, cioè. Ma sai cos'è? Che da quando è nato questi compiti di polizia si stanno esaltando, capito? Sono nati i compiti di polizia e adesso possono arrestare, fare tutto qua. Quello lo potevano già fare di arrestare. Sono sempre pubblici ufficiali. Ma sai cos'è, Natali? Gli hanno dato un po' compiti un po' più. E poi sai cos'è? Mesi e mesi di inseguimenti, intercettazioni, così arrivano loro, si buttano su prima spacciatoino pur di arrestare qualcuno e magari gli mandano a monte mesi di lavoro, di inseguimenti, pedinamenti, capito? Non ne possono la vita, Minatari, l'ho sentita sta storia. Se rovinano le indagini, sì, loro devono fare quello che gli compete, non quello che non gli compete. Loro devono andare solo a controllare il traffico e a mettere le multe. Ma invece adesso fanno di tutto. Perché hanno dato compiti di polizia, si stanno esaltando. Già in certi posti erano già esaltati i vigili urbani, magari i poliziotti. E adesso si stanno esaltando lo stesso. Le hanno dato questi compiti di polizia e stanno facendo, per dire, ricipi, cosa di bussudì, vanno nelle scuole, arrestano gente che sta spacciando, quelli in moto specialmente. Ma quello è roba che deve fare l'antidroga, non loro. Poi con la droga non bisogna scherzare molto. Non hanno ancora capito, ci possono rimettere le pene. Lo fanno quei ragazzini, capito? C'erano dei ragazzini spacciando nelle scuole, loro li hanno visti e li hanno fermati. Hanno chiamato la polizia e l'hanno arrestati. Ragazzini poco più che maggiorini, dai. Ragazzi così delle medie. Purtroppo gli hanno dato dei compiti troppo grossi, secondo me, perché non sono preparati per fare certe cose. Loro dovrebbero fare cose di traffico, incidenti stradali, queste cose qua, sì, ma tutto ciò che riguarda la cosa urbana, no, vabbè che è una forza in più comunque. Ma si devono coordinare, capito? Non che non comunicano uno con l'altro, devono comunicare anche con gli altri, dimmi che stiamo inseguendo tale persona, queste cose così, che stiamo pedinando questo, se no rovini magari indagini cazzo di mesi di lavoro, capito? Come ieri. Fondo scala copriva anche voi. Sì, fondo scala qua. Qua copriva anche te, Minatari, tutte e due copriva. Ma è qualcuno che non esce di radio forse? Il telefono sentivo. Ma anche oggi? Sì, poco fa quando l'ha messa. Sentivo tu. forse sono indesiderati i nostri discorsi, non saprei. Evidentemente sì. Perché di cosa stiamo parlando? Si sente il bip, non si sente la modulazione. Sì, è perché lui che si sta provando i gusti. Mi sa che bisogna andare in quella bagnata, amico. Marco. Marco, sull'uno, mi. Marco, tutti scappati, bubu. Oh, veramente ci sono io, il più forte della frequenza, Natali, ti metto la portante. Ciao. E allora? Natali, fa la cortesia, dammi un controllo, che c'è la stazione della 74. Il cazzo, 9.20 sta arrivando qua. Ascolta, chi altro c'è in frequenza, Natali? Ma quindi funziona ancora questo barattolino di acciughe? Sì che funziona, solo che non c'è nessuno, tutti scappati ce ne sono. Perché sono tutti quanti, cazzo, tutti qua poi. Vabbè, lo dici da anche Moba oggi. Ascolta, ma spiegami un attimo, ma tu cosa ti mangi, la bevi margherita o la bevi quattro stagioni? No, la quattro stagioni. E poi cosa ne bidi due, cosa ti fai, rubisci la busta? No, siamo in due, io e mia moglie. E l'altra bevi margherita, la sgarina è pigliato tre, una bevi margherita e due bevi quattro stagioni. E perché c'era una persona qua. C'avevi ospiti. Ciao Andre. Vabbè, dai, ti saluto che mi stanno chiamando a fare pizzette. Sto lavorando a Pudi, che pizzette al taglio, ciao. Ciao, ciao. Vabbè, dai, comunque trasmette, vado a vedere le acciughe e funzionano ancora, ciao, ciao. Ciao, ciao. Se è rimasto qualcuno, se no me la sto chiudendo. Chi sei rimasto qua? Io. Ti stavo chiamando e non rispondevi. Anche Gianni c'è. Boh. Ehi, Natalino, al telefono. Diciamo è stata una sgridata, una persona importante. Importante, ha chiamato, ha detto di smettere di fare certi discorsi, se no sono cavoli nostri. Ehi, aspetta un attimo, mi stanno telefonando.